Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ieri è uscito dal carcere Salvatore Guadagno, che nel 2010 a Filetto Umberto uccise la moglie Carmela Cerillo, di 38 anni. I figli ora temono che voglia cremare i resti della moglie e tenerseli con sé. Una 23enne a Trieste è stata aggredita, rapinata e molestata due notti fa da due uomini con volto coperto. Lutto nel mondo accademico. Per un malore improvviso ieri è morto Maurizio Fermeglia, rettore dell'Università di Trieste dal 2013 al 2019. Onorificenze al merito per Lucia Bevilacqua e Salvatore Pilato di Prosecco, nominati Cavalieri della Repubblica per il loro impegno nel sociale. Delusione in casa udinese dopo la nona sconfitta in campionato. In Serie C continua la serie di sconfitte per la Triestina, battuta per 2-0 dal Vicenza. Basket: Trieste torna alla vittoria battendo per 73-57 Agrigento, penultima nell'altro girone di A2. Al via San Pietro Natisone il Trail Running Tour 2024 del Friuli Venezia Giulia, il circuito regionale di corse in montagna sulle lunghe distanze. Festa e musica sullo Zoncolan con un ospite speciale, il campione del mondo di sci alpino Christoph Innerhofer. Alle 7:19 minuti e 30 secondi di lunedì 26 febbraio, un cordiale buongiorno da Lorenzo Gerlinzoni e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto la pagina del tempo, cielo da poco nuvoloso variabile sulla regione, le temperature registrate alle 6, Trieste 7 gradi, Udine 4, Pordenone 3 gradi, Gorizia 2 gradi e 5 decimi, Tolmezzo e Tarvisio 5 decimi di grado, Piancavallo 0 gradi, Forni di Sopra meno 1 grado e mezzo, sotto lo zero anche Sappada con 2 gradi e 5 decimi, Monte Lussari, Monte Zoncolan meno 4 gradi, a Grado e Lignano 7. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi: al mattino cielo nuvoloso, dal pomeriggio coperto e in serata a partire dalle zone occidentali in estensione poi alle altre zone saranno probabili piogge sparse, in genere deboli o moderate, con quota neve intorno a 1000-1200 metri circa sui monti, in quota soffierà vento moderato da sud-ovest. In apertura ancora gli sviluppi incredibili di un femminicidio avvenuto 14 anni fa in Friuli. Carmela Cerillo, 38enne, fu uccisa dal marito Salvatore Guadagno, 39 anni, il 25 aprile del 2010 nell'abitazione della coppia a Filetto Umberto. Ora l'uomo è tornato libero e rivendica diritti sulla salma della moglie. Il figlio Pasquale, con la sorella, vuole riportare la salma della donna a Napoli, sua terra d'origine, e chiede ancora una volta più rispetto e più diritti per gli orfani di femminicidio. Sentiamo. Da ieri, Salvatore Guadagno, condannato a 18 anni per l'omicidio della moglie Carmela, avvenuto a Filetto Umberto nel 2010, è un uomo libero. Ha pagato il suo debito con la giustizia, ma non quello con i figli. Pasquale e Anna Maria sono rimasti a vivere a Udine e dopo l'esperienza vissuta, pur non avendo avuto contatti diretti con il genitore assassino, hanno paura che possa rifarsi vivo e far loro del male. La mia paura è quello che lui possa, al di là del farmi del male fisicamente, distruggermi a livello psicologico. Io esco da 3 anni di totale depressione, dove sono caduto, mi sono dovuto rialzare con forza da solo, ne ho scritto un libro, e pensare che lui oggi possa venire nella mia attività, dove lavoriamo io e mia sorella, e semplicemente bere un caffè, sottoponendoci a uno stress psicologico immenso, lo trovo una cosa assurda. Noi ci siamo mossi in questa direzione, abbiamo provato a capire se si poteva avere un allontanamento cautelare, ci è stato negato. Pasquale, che gestisce un bar in periferia di Udine, lotta per i diritti degli orfani di femminicidio. La legge, per assurdo, continua a tutelare di più chi ha ucciso la moglie rispetto ai figli. Il caso che lo riguarda è assurdo: avrebbe voluto cremare la salma della madre e portarla a riposare a Napoli, vicino alla nonna, anche lei uccisa dal marito. Per farlo avrebbe avuto bisogno del benestare del padre omicida, che l'ha negato, e anzi avrebbe pure avanzato delle pretese. Per questo chiede a gran voce una nuova legge. Cosa chiedete allo Stato? Cosa chiedete al Parlamento? Cosa chiedete al Governo? Io penso sia un'ingiustizia il fatto che io debba fare un processo contro mio padre, quindi mettermi di nuovo in questo stress psicologico di dover far guerra contro di lui, quando questa cosa mi spetta di diritto. Penso che questa battaglia vada al di là del colore politico e penso che appunto lo Stato debba dimostrare all'Italia che tutti uniti si può cambiare qualcosa. Voglio una legge che tuteli gli orfani, che ad oggi c'è ma è quasi impossibile accedervi, oppure tutto quello a cui loro hanno pensato non aiutano concretamente l'orfano. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca con una notizia, la notizia di una attentata, violenza e rapina ai danni di una 23enne a Trieste. Una ragazza di 23 anni è stata abusata sessualmente e rapinata la scorsa notte a Trieste. L'aggressione è avvenuta attorno alle 4 del mattino in via Rigutti, nei pressi di Piazza Perugino. La giovane stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con amici quando è stata strattonata e buttata a terra da due uomini incappucciati che l'hanno colta alle spalle. Entrambi di alta statura, 1,80 m circa, parlavano italiano secondo quanto raccontato dalla ragazza. Il primo ha tentato di abbassarsi i pantaloni cercando di usarle violenze. Il secondo le ha rubato la borsa. La giovane è riuscita a divincolarsi e a scappare. Si è presentata ieri mattina in ospedale, dove l'hanno poi raggiunta le volanti della questura di Trieste. Ancora sotto shock e con qualche chimosi ha raccontato cosa le era successo. Serrate le indagini della polizia, già acquisite le immagini della videosorveglianza della zona, con l'obiettivo di raccogliere quanti più elementi possibili per individuare e rintracciare gli assalitori. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lutto nel mondo accademico. Maurizio Fermeglia, rettore dell'Università di Trieste dal 2013 al 2019, è morto ieri pomeriggio per un malore improvviso che l'ha colpito lungo un sentiero in Val Rosandola, nel territorio del comune di San Dorligo della Valle, alle porte di Trieste. Sul posto sono subito intervenuti sanitari, l'elisoccorso, polizia di Stato e volontari del soccorso alpino. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo. Sposato con due figli, Fermeglia si era laureato in ingegneria chimica alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trieste nel 1980. Una lunga e prestigiosa carriera accademica e di ricercatore la sua. Maurizio Fermeglia era nato a Trieste nel 1955. Dopo la laurea aveva superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere chimico nel 1985. Tra gli incarichi era stato direttore di Dipartimento di Ingegneria Chimica dell'Università di Trieste dal 2006 al 2012 e preside del Consiglio delle strutture scientifiche dell'Università dal 2010 al 2012 e direttore della scuola di dottorato in nanotecnologia. E ora parliamo di DONC, Humanitarian Medicine, associazione di medicina umanitaria che da oltre 10 anni fornisce assistenza sanitaria gratuita a chi non ha accesso al sistema sanitario nazionale. L'associazione ha deciso di organizzare questa sera alle 19.30 al Culturni Dom di Contovello un incontro aperto dedicato agli abitanti dell'altopiano carsico. L'appuntamento si intitola Da Kabul a Camposacro, migrazioni, salute pubblica e integrazione. Vuole raccontare, oltre al fenomeno delle migrazioni dall'Asia e dal Medio Oriente che hanno nel Carso triestino il proprio traguardo, raccontare anche ciò che i medici e gli infermieri volontari dell'associazione vedono ogni giorno durante le visite effettuate nei diversi ambulatori presidiati. Sentiamo. Prima di tutto noi offriamo questo servizio anche perché molti di loro non sono ancora in grado di accedere al Servizio Sanitario Nazionale, quindi non hanno la possibilità di vedere tutelato il diritto alla salute. Oltre a questo, noi vediamo vari tipi di problematiche, a seconda, diciamo, della modalità con cui il migrante ha viaggiato, del tempo che ci ha messo, da quanto tempo si trova in Italia. Quindi dalle ferite dovute all'attraversamento dei boschi per arrivare dalla Bosnia fino a Trieste, oppure le conseguenze di questo, che possono essere anche gastroenteriti dovute all'aver mangiato cibo avariato o erba o aver bevuto delle pozzanghere, problematiche di tipo dermatologico dovute alle scarsissime condizioni igieniche, ma abbiamo osservato che la principale problematica di salute in questo momento sono i traumi psicologici dovuti sia alle persecuzioni avvenute nei paesi di origine sia alle violenze che vengono subite durante il viaggio. Queste persone perché non possono accedere al Servizio Sanitario Nazionale? Sarebbe una soluzione farli rivolgere al pronto soccorso, secondo voi? No, noi siamo lì anche per alleggerire il lavoro del pronto soccorso, perché fino a che il migrante non è inserito nel sistema sanitario nazionale, ma questo ha dei tempi che si stanno anche allungando a causa della grande mole di lavoro che è richiesta, visti i numeri molto importanti degli arrivi, l'unico modo per garantire le cure sarebbe accedere al pronto soccorso e quindi il pronto soccorso verrebbe sovraccaricato di casi che dovrebbero essere risolti in un altro modo, cioè tutti quei casi che invece dovrebbero essere presi incarico dal medico di medicina generale. Però questa figura ancora non c'è finché non c'è l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale ed è lì che DONC interviene e consente un alleggerimento del carico di lavoro nel pronto soccorso, che è pensato per le urgenze, per le emergenze, non per interventi di tipo ordinario. Onorificenza al merito per Lucia Bevilacqua e Salvatore Pilato di Prosecco, nominati Cavalieri della Repubblica per il loro impegno nell'inclusione sociale. Il 20 marzo ritireranno l'onorificenza al Quirinale. È piovuta addosso dopo 40 anni di lavoro. Ti fa piacere, perché il fatto che ti venga riconosciuto qualcosa dalla più alta carica dello Stato è comunque una cosa estremamente emozionante. Il 20 marzo Salvatore e Lucia saranno al Quirinale a ritirare l'onorificenza dal presidente Mattarella. Fisioterapisti, sono da anni impegnati per l'inclusione sociale. In questo bar di Prosecco hanno assunto a tempo indeterminato 4 giovani con disturbi dello spettro autistico. Tra loro ci sono Daniele e Dana. Apparecchio, se voi clienti, do per le ordinazioni, preparo a mangiare il cibo insieme alle mie colleghe di lavoro. È un posto eccezionale, gestito da persone veramente stupende, mi trovo molto bene con i colleghi. Il servizio ai tavoli, l'impasto della pizza, tutto viene svolto dai ragazzi, perché riabilitazione non vuol dire solo tornare a flettere un ginocchio, ma superare un trauma ed essere reinseriti nella società. I ragazzi hanno cambiato quasi tutti tantissimo il loro atteggiamento, perché finalmente sono riconosciuti come persone in quanto tali e come persone lavorano all'interno del mondo del lavoro, e quasi tutti hanno anche iniziato un percorso di autonomia abitativa. In tanti si fermano a fare i complimenti ai ragazzi per l'onorificenza. Da parte dei clienti c'è sempre molto interesse. Si stupiscono molto spesso della grande quantità di sorrisi che trovano, perché i ragazzi sono estremamente accoglienti. I ragazzi possono sorridere al loro futuro. Continuerò a lavorare in sala fino a quando non andrò in prigione, ecco, diciamo, ma ci vuole tempo per andare in prigione adesso. Prosecco, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Con ulteriori 200.000 euro deliberati dalla Giunta, che portano così il plafond complessivo a 2,7 milioni, amplieremo la platea dei beneficiari che potranno accedere alle attività di istruzione e formazione professionali rivolte ai giovani svantaggiati d'età inferiore ai 18 anni. Lo ha annunciato l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Alessia Rosolen. La delibera, spiega una nota, integra il quadro finanziario già stabilito con provvedimento approvato lo scorso maggio, quando vennero stanziati 2 milioni e mezzo con riferimento alle azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Le iniziative consistono nell'assistenza socio-psicopedagogica nei confronti degli allievi disabili certificati, degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento certificati o con disturbi evolutivi specifici. Alle 7.31 una notizia di cronaca, ancora un'auto finita in un canale, successo la notte tra sabato e domenica in via Tarvisio a Castions delle Mura di Bagnaria Arsa. Alla guida della vettura c'era una donna che è uscita ad abbandonare il mezzo, poi sprofondata nell'acqua. Per lei ferite lievi. È stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata all'ospedale di Palmanova. Attivata la squadra del distaccamento di Cervignano e dei Vigili del Fuoco, supportata dall'autogru del comando di Udine e dai sommozzatori del nucleo di soccorso subacqueo e acquatico del comando di Venezia. I sommozzatori hanno provveduto a verificare che non ci fossero altre persone a bordo dell'auto e ad imbragarla, e che poi issarla arriva sul posto. Sono intervenuti i carabinieri. Con una messa e una cerimonia civile durante la quale è stata deposta una corona d'alloro nei pressi dell'area verde intitolata ai caduti di Arsia, sono stati commemorati a Udine i minatori morti il 28 febbraio 1940 nel disastro minerario, appunto, di Arsia. Le 185 vittime, ha detto il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, nell'84esimo anniversario della tragedia, sono state a lungo e colpevolmente dimenticate, croate per gli italiani e italiani per i croati, quegli sfortunati minatori morti in uno dei peggiori disastri della storia mineraria hanno diritto alla stella al merito del lavoro, alla memoria. Un'occasione di confronto sui temi del terziario locale. La Via del Tiglio, gruppo che unisce 10 aziende del territorio, promuove un incontro a Villa di Topo Florio a Butrio, questa sera alle 19, per parlare delle attività di vicinato, una risorsa per i centri storici. Presenti il presidente regionale Massimo Federico, l'assessore regionale attività produttive Sergio Emidio Bini e il vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente provinciale Giovanni Da Pozzo. Al centro del dibattito le prospettive offerte alle attività locali dai distretti del commercio. Ne abbiamo parlato con Filippo Meroi, referente dell'associazione La Via del Tiglio, che organizza la serata. Tante attività fanno fatica, è bastato vedere i numeri riportati sulla stampa non più tardi di 15 giorni fa. 111.000 negozi chiusi a livello nazionale, numeri che si ripercuotono anche a livello provinciale. In città di Udine un negozio su 5, si parla praticamente del 20%, questi sono numeri degli ultimi 10 anni. Se ci spostiamo ancora più indietro, dal lontano 2001, sono numeri che quasi raddoppiano. Noi vogliamo far capire una cosa di fondamentale importanza, che i centri storici senza queste attività di vicinato, sia del settore del commercio che del settore dei servizi, probabilmente morirebbero, i paesi diventerebbero dei dormitori. Noi vogliamo far capire invece quanto è importante mantenere queste attività che, come abbiamo dimostrato noi con il nostro gruppo La Via del Tiglio, oltre che offrire degli ottimi servizi alla nostra clientela, facciamo all'interno dei nostri negozi anche delle attività legate al sociale, cosa di fondamentale importanza all'interno delle nostre comunità. I distretti del commercio funzionano e perché funzionano se funzionano? Noi crediamo che i distretti del commercio siano una formula strategica per l'innovazione e per il futuro delle attività di vicinato. Nel nostro territorio c'è il distretto Friuli Orientale, sono praticamente 12 comuni che hanno voluto unirsi insieme per fare questa attività di marketing, attività di comunicazione. Io credo che siamo assolutamente sulla buona strada, abbiamo iniziato a fare i primi lavori, abbiamo disegnato il manager, abbiamo l'associazione di categoria Confcommercio che ha messo a disposizione la sua società, la Terziaria CAT, serve per essere vicino alle attività, ma soprattutto ascoltare quelli che sono i suggerimenti da parte di queste attività per far sì che il lavoro che il distretto svolge sia a loro beneficio. Nell'ambito del programma Infrastrutture, il sistema camerale del Friuli Venezia Giulia organizza una serie di tavoli di confronto con la collaborazione di Union Trasporti per l'individuazione delle opere strategiche più urgenti per il territorio. L'idea è che la ripresa economica passi anche dallo sviluppo di determinate infrastrutture fondamentali per rendere più competitivo il tessuto produttivo. Così la Camera di Commercio della Venezia Giulia ha organizzato per le 12 di oggi un webinar, tavolo di confronto per lo sviluppo, volto appunto a selezionare insieme agli associati le opere indifferibili necessarie al sistema imprenditoriale. Una borsa di studio alla memoria dell'ingegner Paolo Petrucco, fondatore della ICOP di Basiliano, scomparso nell'agosto di 2 anni fa. La cerimonia di assegnazione si svolgerà questa sera alle 18 nella Torre di Santa Maria di Confindustria Udine. La borsa di studio è finanziata dalla Fondazione Paolo Petrucco, che intende così favorire la formazione e la crescita di studentesse e studenti universitari meritevoli tramite lo svolgimento di un periodo di studio all'estero nell'ambito dell'ingegneria civile. E oggi il Presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi visita il Friuli Venezia Giulia. Alle 15 Bonomi è atteso a Trieste nella sede dell'Associazione degli Industriali in piazza Casati, dove dialogherà col presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. Ci sarà anche una delegazione della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, guidata dal presidente regionale Martin Figeli, e la manifestazione che la Coldiretti nazionale ha indetto per la giornata odierna a Bruxelles sotto i palazzi delle istituzioni europee. Manifestazioni, spiega Figeli, che continueranno fino a quando la categoria non avrà ottenuto risposte esaustive rispetto ai bisogni delle imprese. L'associazione, che già 2 settimane fa aveva ottenuto incontrare la presidente dell'Europarlamento Metsola e il commissario europeo all'agricoltura Wojciechowski, chiede tempi e strumenti certi per cambiare le politiche comunitarie che minacciano la sopravvivenza del settore. Questa volta siamo pronti a portare a Bruxelles anche le istanze del nostro territorio, ha detto ancora Figeli. E ora la pagina dello sport. Delusione in casa udinese dopo l'ennesima sconfitta a Marassi, dove la squadra di Cioffi ha subito 2 gol, fallendo così un match basilare in prospettiva salvezza. Dopo il pareggio con il Cagliari, il KO di Marassi con il Genoa, l'Udinese senza le vittorie a San Siro con il Milan e allo Stadium con la Juventus, ora non avrebbe quella coperta, forse un po' corta ma ancora confortevole, dei 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il paragone è con i 6 punti conquistati in 6 gare contro le ultime 5 della classifica. Contro il Genoa, errori di attenzione più che di gioventù di una squadra che schierava un 11 di partenza di 25 anni e mezzo di età media. Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese. Non c'è più tempo, o ce n'è poco, o ce n'è sempre meno per sbagliare, quindi ne siamo consapevoli. A pesare sono anche i 40 gol subiti, quinta peggior difesa del campionato, troppi per una ricerca della salvezza tranquilla, con il salvagente fissato ora a 34-35 punti a 12 gare dalla fine. Fondamentale per la squadra di Cioffi la sfida salvezza di sabato prossimo con la Salernitana in casa. Non ci sarà Christensen squalificato, mentre per Isibue gli accertamenti dopo il trauma cranico subito hanno dato esito negativo. Ad esserci, sicuramente, di nuovo al loro posto, i tifosi della curva nord dello Stadio Friuli. Martedì si riparte con rabbia, cattiveria, frustrazione, confidando di trovare l'amore dei tifosi che ci dia calma per affrontare una partita difficile. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E si allunga la striscia di risultati negativi in Serie C per la Triestina Calcio, che ha perso anche contro il Vicenza per 2-0. A Vicenza il Lanerossi vince senza faticare troppo per 2-0 la sfida per il terzo posto nel girone di Serie C. La prima palla gol nitida è della Triestina per Anzolin, che calcia da centro area senza inquadrare la porta. È però il Vicenza a passare. Tronchin ruba palla sulla tre quarti e libera della morte. Il trequartista biancorosso arriva al limite dell'area e fa partire un gran diagonale sul quale Matosevic non può fare nulla. La Triestina prova a rispondere ma non crea vere occasioni e non riesce ad approfittare di qualche sbavatura difensiva dei padroni di casa. E sul finire della frazione è Rolfini a cercare la rete di testa senza centrare il bersaglio. Il Lanerossi raddoppia in avvio di ripresa, della morte si libera sulla sinistra e crossa al centro. Nessun difensore allabardato interviene, Talarico è solo, apre il piattone e piazza la palla sotto la traversa. La reazione alla bardata porta molto possesso palla ma poche occasioni. Un colpo di testa da sottomisura di Lescano finisce alto sulla traversa. Un altro tentativo in tuffo, sempre di Lescano, viene ribattuto dal portiere. 4 partite, 4 sconfitte, terzo posto perso e 4 a rischio. Continua il disastro alla bardata di questo scorcio di stagione. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora il basket. La Pallacanestro Trieste ieri ha battuto per 73-57 la modestissima Agrigento, penultima nell'altro girone di A2. Torna la vittoria, la Pallacanestro Trieste, ridotta numericamente dall'infortunio di Campogrande, batte 73-57 la modestissima Agrigento, penultima nell'altro girone, e non per caso. Partita scorbutica con gli ospiti che nel primo tempo dominano approfittando della pigra difesa dei biancorossi. Visto il momento della squadra di Christian, reduce da 4 stop di fila, Ambrosini e compagni provano subito l'allungo, sperando che la pressione esterna, un palazzo che sembra più vuoto dei 3.000 spettatori dichiarati, si faccia sentire sui triestini, che infatti subiscono 26 punti facili facili nel primo quarto, chiudendolo sotto di 11. Con pazienza, sfruttando le debolezze dei siciliani soprattutto tra le riserve, Trieste invece torna sotto con i canestri di Vildera e quelli di Filloi, che guida la rimonta e pareggia a metà partita a quota 37. Nella ripresa c'è solo Trieste, Vildera sotto canestro dalla scossa decisiva, De Angeli marca molto bene lo spauracchio Ambrosin e così Agrigento getta via palloni su banalissime incomprensioni tra giocatori che tra età, stazza o limiti tecnici fanno davvero fatica a competere nella categoria. Nel finale i biancorossi dilagano con le triple di Brooks e di Candussi, chiudendo sul più 16 finale. Miglior marcatore però è ancora una volta Vildera con 17 punti e 6 su 8 da 2. Ferme invece Cividale e Udine per gli impegni nazionali di Redivo e Delia. I Ducali recupereranno il 15 marzo contro Torino, il giorno prima al Carnera. L'APU affronterà gli studenti della Luis Roma. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Festa e musica in alta quota con un ospite speciale, il campione del mondo di sci alpino Christoph Hinnerhofer, protagonista dell'evento organizzato da Promoturismo FVG sullo Zoncolan per festeggiare una stagione invernale molto positiva. Lo Zoncolan è il polo sciistico che in questa stagione ha registrato il 7% in più di presenze sulle piste rispetto allo scorso anno, inverno che segnò il record assoluto di skipass venduti. Un risultato più che positivo in linea con quello generale di tutte le località montane del Friuli Venezia Giulia, che fino ad ora hanno ospitato ben 689.000 turisti della neve. per ringraziare gli appassionati degli sport invernali che continuano a scegliere le piste della nostra regione, Promoturismo FVG ha voluto ringraziarli con uno ski party proprio nel compresorio carnico, con la presenza di un ospite di lusso, il campione di sci alpino Christoph Innerhofer. Il finanziere di Guys è stato letteralmente preso d'assalto dalle centinaia di tifosi e appassionati, tutti pronti a chiedere un selfie o farsi autografare il proprio casco. Poi, a 5 ragazzi under 14, è stata data la possibilità di sciare con il campione olimpico. A me piace sempre sciare con i bambini, a trasmettere a loro la passione per lo sci, perché lo sci comunque è un sport bellissimo, fare le pieghe, la velocità, i salti. Un'esperienza che ha lasciato il segno soprattutto tra i più piccoli. Bello, perché andavamo veloce. Da grande appassionato delle due ruote, Innerhofer conta di tornare in estate sul Kaiser. Sono ancora mai salito qua in bicicletta, però è vero, sarebbe ora, visto che pedalo spesso anch'io, 3 volte in settimana faccio dei giri da 100 km in su, quindi questa mi manca. Una festa proseguita con una discoteca sotto una fitta nevicata. Pietro Berti, disc jockey. Il bello di queste cose è che è tutto improvvisato. Ovviamente la neve fa un po' di atmosfera, crea un'atmosfera veramente speciale. Chi con gli scarponi ai piedi, chi con i dopo sci, tutti pronti a scatenarsi con i brani della Digital Music Dance. Bello, bellissimo, sta nevicando un sacco, tornerò sicuramente. Quella dello ski party è stato il primo evento di una serie che proseguirà anche nei prossimi anni. Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale. Il prossimo anno sicuramente evento musicale simile, lo faremo un po' itinerante in tutti i poli sciistici per far conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo. Zoncolan, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E grande festa dello sport anche nel Tarvisiano con la 16ª edizione del Lussarissimo, appuntamento per gli appassionati di sport invernali. L'evento ha animato Tarvisio e dintorni per tutto il weekend. Il Lussarissimo, ormai classica kermesse sciistica, ha proposto anche quest'anno una serie di appuntamenti sia a valle che tra le innevate vette del Lussari nel cuore delle Giulie. Momento clou il Lussarissimo Classic, lo slalom parallelo su un tracciato di 4 km con un dislivello di 1000 metri e 100 porte sulla pista di Prampero. La gara è oramai diventata una classica dello sci regionale ed attrae centinaia di appassionati di sci alpino e sci alpinismo anche da Veneto, Austria e Slovenia. Sabato si è disputato il Lussarissimo Young, la gara riservata ai più giovani. Venerdì sera l'appuntamento invece era con la ciaspolata al chiaro di luna Moonwalkers. Si è aperta ieri con la prima gara San Pietro al Natisone il Trail Running Tour 2024 del Friuli Venezia Giulia, il circuito regionale di corsa in montagna sulle lunghe distanze che si concluderà il prossimo novembre dopo 40 gare che toccheranno tutto il nostro arco prealpino. Gioioso rito propiziatorio con lo sciamano Gilberto Zorat e poi da San Pietro al Natisone prende il via l'Eurotrail Segui l'Orso. 450 atleti allo start per 25 km con 1350 metri di dislivello che si possono affrontare sia singolarmente ma anche in staffetta a due corridori. 143 invece i passeggiatori per la Family Run, molto più tranquilla, solo 8 km. Sul percorso competitivo gli organizzatori del gruppo sportivo Alpini Pulfero assieme a Vallimpiadi hanno strutturato una prima parte molto impegnativa per salire fino al Passo San Giorgio di Pulfero, poi discesa a ritornare verso il Natisone. A metà percorso il primo cambio per la staffetta, Lorenzo Buttazzoni lancia Patrick Di Lena. Nella corsa individuale invece è lo sloveno Zan Zepic a transitare in testa. Massacrante la seconda parte sui gradoni fangosi di quello che viene chiamato il muro delle Crivapete, le donne leggendarie dei boschi veneciani. All'arrivo lo staffettista Patrick Di Lena, sempre in testa, conclude in 2 ore 14:50. Nella durissima corsa individuale invece vince lo spagnolo Andrés Hover Kilis in 2 ore 20:33, seguito dallo sloveno Zan Zepic. Successo italiano invece nel femminile con Daniela Valgimigli di Lugo di Ravenna in 2 ore 58:19. Belle salite, sono riuscita a gestirle e sono riuscita ad andare fortissimo in discesa, che non è una mia forza, però oggi sentivo le gambe che giravano, quindi la discesa mi ha portato bene oggi. Sentiamo l'organizzatore della gara e presidente del gruppo sportivo Alpini Pulfero, Amedeo Sturam. È un ottimo test per tutti gli atleti che cominciano la stagione. Ho voluto portare tutti questi ragazzi nel mio territorio, nelle mie borgate, Pulfero, Pegliano, San Giovanni d'Antro, proprio per percorrere i sentieri che una volta conducevano a valle quando le strade ancora non esistevano. San Pietro al Natisone, Maurizio Merva, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7:48 minuti siamo alla rassegna stampa. Morto in carso l'ex rettore Fermeglia, titola in apertura il giornale, in apertura di giornale Il Piccolo di Trieste. È stato colto da malore mentre camminava in Val Rosandra. Il cordoglio di istituzioni e comunità accademica. Subito sotto in prima pagina troviamo la cronaca: rapinata e molestata di notte da due uomini incappucciati in via Rigutti. Questa notizia è anche l'apertura del capocronaca di Trieste nelle pagine interne. Quindi un boxino sul codice della strada. Il Friuli Venezia Giulia incassa 10 milioni dalle multe, record a Trieste. A sinistra l'intervista all'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel. Il nord-est resta competitivo, dice Orcel, ma per crescere servono capitali. In basso lo sport: Unione calpestata, due fuori rosa, mentre nella pallacanestro contro Agrigento Trieste ritrova solidità e vittoria. Anche il Messaggero Veneto di Udine ha in evidenza in prima pagina la notizia che l'uxoricida, che 14 anni fa uccise e fletto Umberto, la moglie, ora è tornato in libertà e rivendica la salma della donna che invece i figli tentano, ma invano, di portare a Napoli, sua terra natale. In centro pagina il bilancio delle contravvenzioni fatte lo scorso anno nei capoluoghi regionali: aumentano di numero per un ammontare di 10 milioni. Sempre in tema di bilanci, questa volta demografici, nel capoluogo friulano l'immigrazione ha portato la città a toccare quota 98.682 residenti al 31 dicembre 2023, mentre il numero dei decessi è doppiato quello delle nascite. Colonna di destra con richiami di sport: in alto l'Udinese, dopo il KO di Genova, brividi di salvezza con solo il Cagliari che ieri è riuscito a recuperare. Sono sotto un commento sul mercato degli allenatori l'intervista al campione di sci Neroffer, che ricorda quando a 15 anni gareggiava sullo Zoncolan. A piedi pagina torna la vicenda di Giulietta e Romeo, che qualcuno vorrebbe essere una storia udinese, cui dedicare ora un gran ballo. Vediamo il dorso isontino del Piccolo, il titolo d'apertura in prima pagina anche in questo caso è sulla morte improvvisa dell'ex rettore Fermeglia. In capocronaca di Gorizia parla delle carenze dell'assistenza sanitaria regionale, l'assalto all'ex civile per la ricerca del medico, procedure farraginose. Questo il titolo. Il ricorso notturno alla piattaforma Sesamo ha spiazzato chi era in fila da ore, non c'erano più posti disponibili. La CGL all'attacco, la gestione è scandalosa. Sempre a Gorizia l'esternalizzazione della gestione dell'archivio comunale per carenza d'organico, quindi l'addio a Paolo De Ciantis, il padre del PF, primo disco bar del Friuli Venezia Giulia, ucciso da un malore improvviso. Infine il capocronaca della pagina di Monfalcone, lo stop all'incrocio del Porticciolo, un blocco di 32 metri da trascinare. L'operazione scatterà alle 22 del 15 marzo, area blindata, fino alle 6 del 18. Poche le differenze nella prima pagina del Messaggero Veneto di Pordenone da quella di Udine. L'apertura è dedicata alle multe. Nella destra Tagliamento l'aumento è stato del 78,6% con il sindaco Ciriani che lancia gli ausiliari contro la sosta selvaggia. Sotto la carella dei bidelli che erano stati penalizzati nel passaggio dagli enti locali allo Stato. Ora l'Europa dà loro ragione e dopo 25 anni saranno risarciti. Richiamo a centropagina per la notizia che a Pordenone i taxisti non temono l'arrivo di Uber e, con tanto di foto, l'annuncio dell'ultimo turno per Ornello Visentin, colonna dei Vigili del Fuoco locali. Richiamo di economia in taglio alto con Andrea Orcel di Unicredit, che vede ancora il nord-est competitivo. Questo pomeriggio a Trieste comincia una 3 giorni per esplorare il possibile impatto dell'intelligenza artificiale sulla biosicurezza globale e sulla cooperazione internazionale nella Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche. A organizzare l'appuntamento è la Inter Academy Partnership, una unità di programma dell'UNESCO che ha sede a Trieste. La riunione, che vedrà la partecipazione di esperti tecnici e scienziati provenienti da tutto il mondo, è in programma dalle 15 alle 18 e poi domani e dopodomani a partire dalle 9. Al Centro Internazionale di Fisica Teorica di Miramare. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con VOF Evelyn D. Anche per i comuni della nostra regione è fondamentale la cultura del risparmio energetico e degli stili di vita. Alle 11.20 circa l'appuntamento con Peter Pan. Partiamo oggi da Gorizia, che da questo mese ospita Quanto vale un petalo, nuovo progetto sulla biodiversità. Si presenterà poi il progetto Leggimi Ora, la nuova iniziativa di Leggiamo 018, spazio infine alla meditazione con gli oli essenziali. Dalle 12 alle 13 andrà in onda uno speciale del GR1 dedicato alle elezioni in Sardegna. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Era questa la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Valentina Veneruso, per la parte tecnica Mauro Cumin e Vittoria Protti. Da Lorenzo Gerlinzoni, Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.